prima dell'ora in cui finivano i tè pomeridiani, al calare del sole, nel cielo ancora chiaro si scorgevano da lontano piccole macchie brune che si sarebbero potute scambiare nell'azzurro della sera per moscerini o per uccelli. Allo stesso modo, quando si vede da molto lontano una montagna, la si potrebbe credere una nuvola. Ma ciò che emoziona è sapere che quella nuvola è immensa allo stato solido e resistente. Così mi emozionava che la macchia bruna nel cielo d'estate non fosse né un moscerino né un uccello, ma un aeroplano da cui alcuni uomini vegliavano su Parigi. Il ricordo degli aeroplani visti con Albertine durante la nostra ultima passeggiata vicino a Versailles non entrava per niente nella mia emozione, perché il ricordo di quella passeggiata m'era diventato indifferente. All'ora di pranzo i ristoranti erano pieni, e se per la strada vedevo un povero soldato in licenza, sfuggito per 6 giorni al rischio permanente della morte e pronto a tornare in trincea, indugiare per un istante con gli occhi sulle vetrate illuminate, soffrivo come a Balbec, in albergo, quando dei pescatori ci guardavano mangiare, ma soffrivo di più perché sapevo che la miseria del soldato è più grande di quella del povero, in quanto le riunisce tutte. È ancora più toccante perché è più rassegnata, più nobile, ed è scrollando la testa filosoficamente, senza odio, che sul punto di ripartire per la guerra diceva, vedendo la ressa degli imboscati alla caccia dei tavoli, non si direbbe neanche che c'è la guerra qui. Poi alle 9:30, quando ancora nessuno aveva avuto il tempo di finire di pranzare, a causa delle ordinanze di polizia si spegnevano bruscamente tutte le luci e la nuova ressa degli imboscati che arraffavano i loro soprabiti dalle mani dei fattorini del ristorante dove avevo pranzato in compagnia di Saint-Luc, in permesso per una sera, aveva luogo alle 9:35 in una misteriosa penombra da stanza della lanterna magica, da interno d'uno di quei cinematografi verso i quali stavano per precipitarsi signori e signore appena alzatisi da tavola. Ma passata quell'ora, per chi, come me, la sera di cui parlo, avesse pranzato a casa sua e uscisse per far visita a qualche amico, Parigi era, almeno in certi quartieri, ancor più buia della Combrée della mia infanzia. Andare a trovare qualcuno era come far visita a un vicino di campagna. Ah, se Albertine fosse stata viva, che dolcezza le sere in cui avessi pranzato fuori, darle appuntamento per strada, sotto i portici. All'inizio non avrei visto niente. Avrei avuto l'emozione di credere che non fosse venuta all'appuntamento. Poi, di colpo, avrei visto staccarsi dal buio del muro uno dei suoi cari vestiti grigi, i suoi occhi sorridenti d'avermi visto, e avremmo potuto passeggiare abbracciati senza che nessuno ci riconoscesse, ci disturbasse e infine ritornarcene a casa. Ahimè, ero solo e avevo l'impressione d'andare a far visita a un vicino in campagna, una di quelle visite che ci faceva a Swan dopo pranzo, senza incontrare più passanti nell'oscurità di Tansonville, lungo la stradina dell'Alsaia fino a Rue de Saint-Esprit, di quanti ne incontravo adesso io nelle vie trasformate in sinuose strade rustiche, da Saint-Clotilde a Rue Bonaparte. D'altronde, poiché i frammenti di paesaggio che viaggiano a seconda del tempo che fa non erano più contrastati da una cornice diventata invisibile, le sere in cui il vento spazzava un gelido acquazzone mi sembrava d'essere in riva al mare, furioso, di cui avevo tanto fantasticato, più di quanto mi ci fossi mai sentito a Balbec. E così altri elementi di natura, che fino a quel momento non erano esistiti a Parigi, facevano credere d'essere appena scesi dal treno per una vacanza in campagna, per esempio, il contrasto fra luce e ombra che uno scorgeva in terra, accanto a sé, nelle sere di luna. Dava il chiaro di luna effetti che le città non conoscono, anche in pieno inverno. I suoi raggi s'adagiavano sulla neve che più nessuno spalava in Boulevard Haussmann come avrebbero fatto su un ghiacciaio delle Alpi. E le sagome degli alberi si proiettavano nette e pure su questa neve d'oro azzurrato con la delicatezza che hanno in certi dipinti giapponesi o in certi sfondi di Raffaello. Erano stese per terra ai piedi di ciascun albero, come si vede spesso nella natura all'ora del tramonto, quando il sole inonda e rende specchianti i prati dove gli alberi si innalzano a intervalli regolari, ma con una raffinatezza deliziosamente delicata. Il prato su cui si diffondevano quelle ombre d'alberi, leggere come anime, era un prato paradisiaco. Non verde, ma d'un bianco, reso così radioso dal chiaro di luna sfavillante sulla neve di giada, che lo si sarebbe detto un prato intessuto per intero con petali di peri in fiore. E sulle piazze le divinità delle fontane pubbliche sembravano, con uno zampillo di ghiaccio in mano, statue d'una materia duplice per la cui esecuzione l'artista avesse voluto sposare in modo esclusivo il bronzo al cristallo. Tutte le case, in quei giorni eccezionali, erano buie, ma in primavera, a volte, qualche palazzo privato, oppure un solo piano, o magari soltanto una camera d'un piano, non avendo chiuso, in sfida ai regolamenti di polizia, le imposte, appariva invece qua e là, dando l'impressione di sostenersi da sé su tenebre impalpabili, come una proiezione puramente luminosa, un'apparizione senza consistenza. E la donna che, alzando bene lo sguardo, si poteva distinguere in quella penombra dorata, assumeva, nella notte dentro la quale ci si sentiva perduti e dove lei stessa sembrava reclusa, il fascino misterioso e velato d'una visione d'Oriente. Poi si passava oltre e niente più interrompeva quell'igienico e monotono scalpicciare rustico nell'oscurità.